ho vissuto nel mio vagabondaggio, ho vissuto nel mio pensiero, ho vissuto nella mia nostalgia, ho vissuto nel mio sogno, tempo per tempo, sentire per sentire, fronte per fronte e continuare. Abitiamo la nostalgia, abitiamo le ombre, abitiamo la luce del nuovo giorno, abitiamo il abitare. Con luce di speranza, con luce che filtra tra il camminare e il camminare, proiettando la luce, la nostra ombra e futuro. Si tratta di se stessi, con le sue sfumature, essere se stessi con la sua varietà di colori, essere se stessi, verità, e di tanto in tanto, bugia. La nostra unità di vita si moltiplica senza riposo, portando i debiti dei lei attenati. La nostra unità di vita si moltiplica senza riposo, con la rinegoziazione del debito e forse anche pagare. Ho vissuto nel mio vagabondaggio, ho vissuto nel mio pensiero, ho vissuto nella mia nostalgia, ho vissuto nel mio sogno, tempo per tempo, sentire per sentire, fronte per fronte e continuare. Abitiamo la nostalgia, abitiamo le ombre, abitiamo la luce del nuovo giorno, abitiamo il abitare.